Siamo grandemente preoccupati per le notizie che leggiamo ogni giorno sui giornali. Per la verità, la nostra preoccupazione nasce dal testo, dai contenuti della legge Gasparri, della riforma delle televisioni. Questa legge avviava un processo di privatizzazione del servizio pubblico molto contenuto, con la possibilità di alienare al massimo l'1% delle quote azionarie e delle quote societarie, e magari raddoppiandolo per soggetti che non singoli, insomma per soggetti multipli, penso a una società editoriale. E invece a cavallo dell'estate abbiamo potuto leggere sui giornali, in particolare penso al Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria, notizie sempre più dettagliate su una ipotesi di privatizzazione complessiva di almeno, prima si è detto il 10, poi il 20, poi il 25% delle quote societarie del servizio pubblico, la cui realtà societaria è stata nel frattempo unificata. Questo significa la possibilità di collocare in borsa i titoli della RAI, questione che come dire, rende effettivo, reale la privatizzazione, cioè la possibilità per un singolo di rastrellare sul mercato quote percentuali molto forti e determinare l'elezione di componenti del Consiglio di amministrazione, significa controllare la RAI. Allora, la nostra preoccupazione è la preoccupazione di sempre, che i soggetti forti, io penso come dire, in particolare ad un soggetto forte, perché gli altri hanno tutti dichiarato la loro incapacità di investire somme così forti sul mercato, l'unico soggetto forte che ha questa possibilità è come dire, Mediaset, e chi già investe è il suo proprietario, che nel frattempo è anche per caso Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, la nostra preoccupazione è che questa privatizzazione avvenga in modo incontrollato, lungo filoni e rispetto a percentuali di quote da collocare sul mercato che non sono definite e che aumentano e diminuiscono secondo l'ultima dichiarazione del ministro Gasparri stesso, e vogliamo avere chiarezza. Noi abbiamo 1600 giornalisti dipendenti che lavorano e traggono il loro sostentamento dalla RAI nel servizio pubblico, garantiscono un'informazione di qualità, anche se in questo momento le critiche sono molto giustificate sul tipo di informazioni che i direttori dei telegiornali, dei giornali radio fanno, non generalizzo, non tutti, ma insomma l'informazione non è quella che corrisponde alle esigenze dei cittadini. Però comunque le potenzialità di equilibrio e di professionalità che vi sono nel servizio pubblico vanno tutelate e difese. 1600 giornalisti che lavorano tutti i giorni rappresentano un sesto dell'intero panorama del giornalismo italiano. A questi vanno aggiunti centinaia e centinaia di precari il cui lavoro è continuo e che è a rischio. È evidente che una privatizzazione spinta del servizio pubblico ridurrebbe ulteriormente la qualità del prodotto informativo e non solo informativo della RAI, e certamente rende, fa venire un punto interrogativo, domanda rispetto a quelli che potranno essere i privati, il nome e la capacità come dire, di investimento dei privati stessi. Io credo che questo è una preoccupazione legittima, mi preoccupa un silenzio trasversale della maggioranza, e si comprende, ma dell'opposizione si comprende un po' meno, su un problema di questo genere. Noi abbiamo chiesto alle organizzazioni sindacali, confederali e autonome, a tutte le forze sociali di incontrarci e di ragionare su quello che sta accadendo. Più oggi sembra che sia possibile per la prossima settimana realizzare un incontro almeno dei sindacati che hanno iscritti, che lavorano in RAI e che devono naturalmente fare gli interessi collettivi di questi lavoratori oltre che gli interessi del cittadino utente del servizio pubblico.